perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Ciao funamboli, ci vorrebbe non 2 ore di trasmissione con voi, ma 4, siete grandiosi. Ma Veronica, sei bella, brava, intelligente, ma un difetto tuo qual è? Vai Manera, sei il numero uno! Buongiorno, ma penso che voi non ascoltate questi messaggi vocali. Siete tutti somari. Non siamo somari, non siamo bravi, non siamo così, non siamo cosà. Siamo i funamboli, siamo... Buongiorno a tutti, una buona settimana, siamo ritornati. Veronica, siamo qui, siamo in diretta su Radio 24. Solo questo noi possiamo dirvi. Ah, ti vedevo al telefono, hai messo siamo giù. Ciò che non vogliamo. Accidenti. Tiè, sono partita così oggi. Senti che settimana! Ciao Fiorellino. Oh, buongiorno presidente governatore. De Luca. Presidente, presidente. Sei geloso che mi dice ciao Fiorellino? No, a me non lo no. dice a te. E come no. possiamo sapere che non fosse per detto, te poi? Magari l'ha detto a tutti gli italiani, il nostro presidente De Luca, che un giorno condurrà. Che spettacolo, che spettacolo. Lo vedi? Quando torna lui subito viene l'allegria. Dobbiamo semplicemente sistemare tutti gli appunti del contratto, limare tutte le questioni e poi ci siamo. Ecco, più funambolo di lui non c'è nessuno. Sì. Secondo me la trasmissione se la merita tutta. Siamo quasi alla firma. 13.000 euro netti al mese. Oh. Però... Se resto anch'io vorrei livellare il mio stipendio su quello di De Luca. Io così. Pensavo ad una cifra così. Parametrarlo. Governatore, parametrarlo. Lavoriamo insieme per un'equa retribuzione. Ma che meraviglia. 9:09. Ma tu scherzi, ma poi un giorno condurrà nella conduzione 4.0 dei funamboli, il presidente De Luca. Sono le 9:09, siamo qui, riparte una settimana come ogni lunedì. È così, ogni lunedì di funamboli. Per ora l'ordine costituito va così, ma magari cambia a un certo punto. Allora, io ieri ho visto con grande attenzione il servizio delle Iene, quello che ha catapultato Fausto Brizzi, regista molto noto in Italia, di grandi commedie che fanno molto successo. Adesso ha fatto anche un ultimo film che pare verrà bloccato a questo punto. L'ha catapultato. O sembra che potrebbe addirittura uscire senza la sua firma invece. Ma come? Il regista? Vabbè, insomma, così questo, pare. Questo beh, vedremo. Insomma, abbiamo visto succedere negli Stati Uniti molto di peggio. Ridley Scott sta rigirando le scene del film con Kevin Spacey, capito, mettendoci dentro Christopher Plummer. Sì, però quello almeno è un attore, qua bisognerebbe cambiare il regista. Comunque, quello lo vedremo. Però l'ha catapultato al centro di accuse pesantissime. Attrici che lo hanno accusato di molestie, in un caso per la verità più che molestie, di un vero e proprio stupro, Beh, di una violenza sessuale. Addirittura un caso di stupro, sì. Allora, non lo so, oggi Nancy Brilli, per esempio, che lo conosce molto bene, ha fatto anche dei film con lui, dice, ma insomma, le attrici, se siete da sole, pretendete la presenza di un agente, oppure andate via, cioè nel momento in cui uno dice spogliati, una può andare via. Non lo so. Questo... Io su questo sono parzialmente d'accordo, nel senso che tu sai bene, Alessandro, che io non sono una di quelle che ha fatto la caccia alle streghe, che non ha demonizzato nessuno, non ho una visione di un certo tipo. Però adesso, a farla facile, non sarei così approssimativa, perché la questione, da come si sta ponendo, poi vedremo come, se la cosa è reale, se si accerteranno delle responsabilità. Ma questo automatismo per un'attrice di successo è un conto, dire una serie di cose quando si ha una credibilità di un certo tipo, quando si è già fatto un percorso e si è in una posizione. Quando una ragazza ancora professionalmente non ha né arte né parte, non ha consapevolezza di sé, magari ha 20 anni appena compiuti, questo tipo di struttura psichica per riuscire ad opporsi e dire di no, però, non è un automatismo. Dobbiamo poi vedere caso per caso e dovremo vedere se queste accuse, devo dire, i racconti di queste ragazze, tutte oscurate nel volto la maggior parte, erano incredibilmente simili, cioè raccontavano quasi una dinamica uguali, no? Una dinamica che si ripeteva, però questo è stato smentito. Fausto Brizzi, tramite gli avvocati, dice: non ho mai avuto nessun tipo di rapporto se non consensuale, non ho mai fatto nessuna molestia. La cosa che mi fa impressione è che l'obiezione che è stata fatta più spesso ieri dai detrattori delle denunce, dicono: no, sono attrici che non contano niente, che non sono diventate famose, chissà perché non parlano quelle che diventano famose. No, basterebbe invertire la prospettiva. Molto spesso queste molestie vengono fatte a ragazze che non hanno nessun potere, proprio perché non hanno nessun potere, non hanno gli estremi per difendersi. Perché se invece c'è un'attrice di successo che ha una posizione consolidata, un regista queste cose non le fa, comunque, e non le fa per varie ragioni. La questione oggi, ripeto, Nancy Brill, ma vedevo anche prima Selvaggia Lucarelli, la posizione di molte donne, anche affermate, è quella che tu un po' già contesti, a dire, insomma, se c'è un accenno di avance basta prendere e dire: no, guardate, grazie, me ne vado, oppure continuiamo in presenza del mio agente, oppure non andare ai provini in cui non si è in 2, 3, 4, 5, non uno e una, già è una situazione un pochino anomala. Però le accuse sono pesantissime. È evidente che ci sia un'anomalia nell'andare a casa di un regista che ti racconta che facciamo il provino a casa e proviamo la scena io e te, facendo la scena sfondo sessuale. Nessuno pensa. Ma da questo a credere che uno, semplicemente perché ci va, sia connivente, non è così, né che necessariamente pensi di averne dei vantaggi. A volte le ragazze non sono abbastanza strutturate da riuscire a difendersi. C'è chi lo è, chi no. Connivente no. Insomma, come dire. La forza di saper dire: no, scusate, adesso prendo e me ne vado, poi dopo lì bisogna capire che succede. Comunque, insomma, se volete chiamarci su questo 800 24 00 24, e se volete mandarci anche sms e whatsapp audio, soprattutto potete mandarli al 349 238 6666. Ebbene sì, intanto però noi iniziamo da una storia che abbiamo affrontato per la verità già nel recente passato, e sono i primi funamboli che sono ospiti da noi. Ricordate la storia del professor Pietro Marinelli, docente di diritto e economia all'Istituto Falcone Righi di Corsico, siamo in provincia di Milano. Professor Marinelli, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Aveva, adesso vogliamo un po' riassumere la vicenda, aveva ripreso, entrando in classe, una studentessa, non si era alzata, studentessa di che nazionalità? Egiziana, se non sbaglio, di origine. Non si era alzata. Anche se cittadina italiana, sì, dire certo. Il vero. Con i genitori egiziani. Non si era alzata, lei aveva ripreso per questa mancanza di gesto di educazione, la ragazza aveva detto che era nel periodo del Ramadan e quindi le mancavano le forze. E da lì è nata tutta una questione di discussione sul Ramadan fatta da lei, e poi una lettera arrivata nei giorni successivi. Insomma, morale della favola, lei si trova indagato per istigazione all'odio razziale. Che è un'accusa pesante, mi sembra. Quanto rischia lei? Terrei a ricordare che purtroppo siamo in un mondo nel quale la maggior parte delle persone pensa di aver ragione per lo stesso fatto di presentare una denuncia a querela in procura. Cioè, questo purtroppo anche da parte del dirigente scolastico del mio istituto, ma nell'andazzo generale, basta presentare una denuncia per aver ragione, questo pensa la gente normalmente. In realtà non è così, vedremo. Adesso bisogna vedere come si evolve, ma secondo lei chi è stato a procedere? Lei immagina che sia stata la mamma, la ragazza, guardi, la scuola? Non lo so, perché quando si fa una richiesta, e questo l'ho saputo solo perché io ho fatto una richiesta di certificato al registro degli indagati, altrimenti non avrei saputo niente. Ma perché le era venuto il dubbio? Le era venuto il dubbio, certo, che qualcuno... perché mi era venuto il dubbio, o meglio, me l'ha detto l'avvocato, che forse sarebbe stato meglio verificare se ero iscritto al registro degli indagati. Io pensavo fosse assurdo, invece ha scoperto così. Perché la questione è ridicola in sé. La questione è piccolissima e può essere emblematica sotto tanti punti di vista, però è una stupidaggine veramente immane che io, se fossi stato un dirigente scolastico, avrei risolto con un semplice colloquio. Quindi la questione è ridicola, però evidentemente alcune persone pensano che, non lo so, insomma, sia gravissima. pensa che sia gravissima, non so, il fatto di lei, di professore, giudizi sì. negativi sull'Islam è evidentemente considerato gravissimo. Questo sì. Lei quanto rischia, a parte il fatto di perdere il posto di lavoro, dovesse essere condannato, immagino rischia licenziamento, ma rischia anche, è un reato che prevede quanto? Guardi, basta leggere la legge Mancino, cioè l'iscrizione del registro degli indagati riguarda la legge Mancino, che è la legge 205 del 1993, quella appunto sulla discriminazione contro la violenza, l'istigazione all'odio razziale, eccetera e quant'altro. Basta leggere quelle pene, le sanzioni della legge Mancino. Però queste sono le pene previste dalla legge Mancino, poi bisogna vedere se va avanti la questione, perché sì. essere indagati, come lei sa meglio di me, di per sé non significa che assolutamente sia no. Vogliamo introdurre, però aspetta Veronica, vogliamo introdurre certo. anche un ospite che ci sta ascoltando. È Sumaya Abdelkader, è sociologa e consigliera comunale a Milano. Buongiorno. Nata in Italia, quindi italiana, genitori giordani, se non sbaglio, quindi originaria della Giordania. Sumaya Abdelkader, le sembra normale, adesso al di là della vicenda che vedremo, che appunto il professore dice ho criticato, ho detto qualcosa magari sul Ramadan, sull'Islam e mi trovo indagato per un reato molto grave, le sembra una cosa giusta? Sì, intanto di nuovo buongiorno a tutti. C'è una cosa da dire. Allora, innanzitutto, se io sto in questo momento parlo del singolo caso episodio che avete descritto ora, perché non conosco se ci sono altri precedenti pregressi di ambo le parti, eccetera. Quindi il caso specifico, crediamo, la ragazzina no. che non si alza per il saluto al professore perché è in Ramadan. Allora, questo mi sembra eccessivo da parte della ragazza come comportamento, perché Ramadan non impedisce a nessuno di alzarsi in piedi a salutare, anzi il professore nella tradizione islamica è sempre visto come una persona di assoluto rispetto che va sempre sempre sempre rispettata, e se lei avesse mancanza di forze per via del digiuno vuol dire che lei non è in grado di digiunare e le è concesso di rompere il digiuno se le mancano le forze, se non ha la possibilità neanche di alzarsi in piedi. Credo questo che questa sia l'osservazione che il professore poi ha fatto, cioè sul appunto no, professore, a dire che religione è quella che consente alla persona debole nel senso fisicamente di digiunare. Questa è un po' l'osservazione del professore che lei ha fatto e che le ha suscitato tutto ciò. Sto soltanto a coloro che sono in perfette condizioni fisiche, quindi né a un anziano, né a una donna incinta, né a un malato, né a anche un viaggiatore può interrompere il digiuno perché le sue condizioni possono essere critiche e il digiuno può comprometterlo. Quindi solo chi è in un momento stabile della sua vita e in perfette condizioni fisiche. Questo è un punto. Oltretutto è un'anomalia che una ragazza non riesca ad alzarsi di mattina, visto infatti, che il Ramadan, se non vado errato, permette la sera di mangiare invece, certo, dopo una certa ora, quindi strano. Quindi è abbastanza. Di solito sì. ci si sveglia all'alba, si fa una colazioncina e poi si torna a dormire. Allora, detto questo, poi io non conosco i termini con cui il professore poi ha dibattuto. Appunto, questo è il punto. Vogliamo chiederglielo, professore, perché lei ha osservato proprio questa cosa, no? È lì la critica che le imputano, cioè che lei ha detto, ma che religione è quella che... Sì, ma guardi, se posso permettermi... Sì. Mi fa molto piacere l'intervento della consigliera Abdelkader, perché in realtà la mia questione, se devo proprio veramente dire tutto, non è nei confronti della ragazza o della madre della ragazza, ma nei confronti della preside, perché è la preside che ha avuto una reazione assolutamente spropositata rispetto al fatto commesso, perché io posso anche aver detto delle frasi che possono essere state considerate eccessive, diciamo. Ma io qual è la cosa, professore, che ha detto che trova che adesso col senno di poi lei trova essere stata sì, più però, esondante, più esagerata? Capito, Ma ho capito, però è la reazione che è spropositata. No, cioè, è una domanda, le chiedevo, cioè, c'è una frase che lei adesso a freddo dice forse quella frase è stata fuori ce luogo? Ce la deve dire, professore, cioè, ci dica, faccia la frase. Fuori luogo, no, non tanto no. fuori luogo. Vabbè, ci dica cioè, cosa ha detto, no, cosa è che ha commentato. Cioè, posso capire che sia, possa essere stata recepita. Come, se io che dico, frase? Così. Il Ramadan mi sembra un periodo veramente molto molto pesante, eccessivamente pesante, se posso dire il mio giudizio. Soprattutto, tra l'altro, quando capita, come quest'anno, in un periodo caldissimo. E quindi è veramente un periodo molto molto impegnativo. Ha criticato il Ramadan in sé, in quanto Ramadan. Sì, in quanto... Ma certo, ma ecco, la questione è grottesca, è che la stessa ragazza, che io conosco peraltro da 5 anni, che è una ragazza normalissima, è una studentessa assolutamente normalissima, e io ce l'avevo da 5 anni, perché adesso si è diplomata, quindi lei quest'anno non ce l'ha più, questo volevo chiederle. No, questa è una ragazza di quinta, che era tra l'altro maggiorenne, peraltro cittadina italiana. Sì, perché c'entra, di religione musulmana. Perché... No, ho capito di religione musulmana, ma cittadina italiana. Ma non fa molta differenza. Non fa differenza. No, la differenza è che non ha senso che un dirigente scolastico accompagni la ragazza a presentare un esposto ai carabinieri, perché oltre all'iscrizione al registro degli indagati, io ho avuto anche un esposto. Cioè, la preside. Ah, cioè sì, ma lei adesso, sì, adesso sta spostando sulla questione della preside, dicendo essendo maggiorenne certo, poteva andare da sola se voleva. Però torniamo un attimo su Maya Abdelkader, la questione della critica al Ramadan in sé, in quanto uno dei fondamenti della religione musulmana. È questo il punto che le è valso, mi sembra. Allora, io sono molto liberale per molti aspetti di vista, quindi per me una persona si esprime un giudizio su qualcosa è assolutamente libera di farlo, però bisogna stare attenti al luogo e al contesto in cui si fanno dei discorsi, perché sicuramente una scuola è un ambiente in cui un professore, un alunno hanno diciamo così dei posizioni di potere molto differenti, e quindi le sensibilità che ci possono essere in ballo sono molto diverse. Secondo me ci poteva essere benissimo una chiacchierata di chiarimento, ci poteva essere anche una lezione successiva dove si spiegava cos'è il Ramadan ai ragazzi della classe, in cui si portava un esperto che approfondisse la tematica, eccetera. Questo assolutamente ci poteva stare, anzi poteva essere integrativo per quanto riguarda anche la posizione del professore, che ha tutto il diritto di avere una critica o comunque non essere compiaciuto o non gli piace la religione di qualcun altro, però ci deve essere anche sempre la possibilità di controbattere, sì, spiegare le ragioni dell'altro, eccetera. Noi viviamo un momento storico dove le sensibilità reciproche sono ai massimi livelli, probabilmente, e questo ci porta a metterci o all'attacco o alla difensiva, sì, in modo disequilibrato. Sì, ecco, questa è la sfida: stare attenti a riuscire a venirsi incontro, comprendere uno le ragioni dell'altro, senza imporre all'altro qualsiasi visione. Sì, è come se ci fosse una sensibilità acuita, in questo momento le antenne sono predisposte Lo so, però adesso io dico, non è che se uno critica in qualche modo il Ramadan debba essere istigato, deve essere indagato per istigazione all'ordine razziale, perché sennò, ragazzi, dove finiamo? Cioè, anche la libertà di espressione. Ecco. No, ma teniamola alta, visto che siamo, voglio dire, figli dell'illuminismo. Si è acceso un livello paranoico altissimo su tutto ciò che non è politicamente corretto da questo punto però, di vista. Insomma, adesso vi salutiamo, ma terremo sempre sott'occhio questa situazione, visto che il professor Pietro Marinelli adesso ci dà indagato, un sacco di sviluppi. Grazie professor Marinelli, grazie Sumaya Abdelkader. Guarda Veronica, che chiamano gli ascoltatori 800 24 00 24. Su cosa? Vabbè, sulla vicenda di Fausto Brizzi e delle accuse di molestie, sicuramente c'è Ferdinando. Mio caro, vuoi che ridia il numero degli sms? Nel dubbio, io lo ridarei, perché mai è troppo. 349-238-6666. Sei contenta? tantissimo, non sai quanto lo volevo dire. Ma anche Ferdinando WhatsApp, attaccato? Ma anche WhatsApp. Se no, volete Ferdinando, mandare... Ferdinando. Ma sta qui Ferdinando. Il numero è lo stesso dei WhatsApp, adesso allora... non arriviamo. Ferdinando, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci. Io vorrei dire dalla mia età una sola cosa. A me sembra che si stia generalizzando in un modo terribile. Questo fatto della vendita di sesso per successo c'è sempre stata. Se non c'è violenza, se non la picchio, se non la butto sul letto con la forza, tutto quanto, c'è stato. E qui invece accusano allora, di violenza. Qui innanzitutto nel caso che trattiamo oggi si parla addirittura di si tratta di penetrazione, quindi è violenza. Con la forza. C'era un film di Comencini, mi ricordo, negli anni 50, dove una mamma portava la bambina per un provino e gli alzava le gonne per far vedere al regista le cosce, quindi se mi ricordo il titolo sì, il film era bellissima, è un fatto vecchio, ma è un film bellissima, è un con film. La Magnani c'è, c'è sempre stato, sì Ferdinando, va bene, ma in questo caso accusano di violenza di, in un caso addirittura di stupro. Poi no, oltretutto io Ferdinando le voglio chiedere una cosa: il fatto che c'è sempre stato secondo lei significa che ci deve essere per sempre? Perché io questo automatismo per esempio non lo vedo. Piano piano la cultura cambia, cioè sono successe delle cose, adesso siamo molto diversi da come eravamo 50 anni fa. Non si poteva divorziare, non si poteva abortire, la cultura va le donne non votavano, poi alcune cose vanno modificandosi, quindi anche se è sempre successo non significa che debba succedere per sempre. D'accordo, però mettere alla gogna dopo 30 anni, dopo 40 anni, cioè l'Asia Argento che viene violentata da quello, da quello, da quello, da quello, è mai possibile? Scusatemi. Ma io forse ho capito. Forse l'americano, perché era giovane. Ma lei continua a dire che anche un altro l'ha violentata, anche un altro l'ha violentata. Ferdinando, lei non crede, certo non ci crede, ma non capisco su quali basi, come non si può come dire, credere ciecamente se non in base ad accuse circostanziate, però non si può neanche capire perché questa preclusione a dire che è tutto inventato, mi sembra. Oltretutto, Alessandro, vogliamo dire una cosa: che c'è un aspetto importantissimo di cui non si parla mai. La legge com'è in Italia? In Italia tu puoi denunciare il fatto per 6 mesi dopo aver subito una violenza, dopodiché non è più possibile farlo. Quindi questo, quando uno dice ma perché non ha parlato prima, a volte in 6 mesi c'è la vergogna, questo ci sono una serie di fattori, è un punto fondamentale. Infatti è uno degli elementi su cui si sta focalizzando la discussione, cioè modificare questa legge, perché se dopo 2 anni uno trova la forza, riesce a parlarne con la madre, con la sorella, con chi che sia, e decide di farlo, dici perché ha utilizzato il canale televisivo, perché ne parla sui social. Questa cosa della legge, effettivamente oggi per esempio Chiara Gamberale fa un'intervista al Corriere della Sera, dice bisogna cambiare questo limite dei 6 mesi, anche perché non è così dappertutto. Infatti avete visto che in America è stato diverso. Sì, in America credo sia 10 anni. Sono 10 anni. C'è sì. Susanna che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, allora io ho 60 anni, sì. Ho fatto ingegneria 40 anni fa, io ho dovuto lottare, io non so Veronica quanti anni abbia, ma io penso di essere profondamente femminista, ma quello che voglio dire è che purtroppo ci sono gli uomini e le donne, ma ci sono anche i maschi e le femmine. Allora, io dico che una difesa a spada tratta delle femmine, e io guardi, io sono un dirigente dell'Ilva, io sono un siderurgico, eppure Veronica, giuro, io tante femmine in tubino le ho viste, sì. E allora una difesa delle femmine non fa onore alle donne, ci sono tante donne che hanno lavorato seriamente e guarda, te lo dico con gli occhi, occhi tu puoi assolutamente mettere chiunque al posto suo, chiaro? Susanna, ma io sono questo assolutamente d'accordo con lei. Scusi, questo è quello che io pretendo da mia figlia, io certo. Lo pretendo, chiaro? Le donne sono un'altra cosa. Purtroppo ci sono le femmine e io sinceramente ne vedo tante. Susanna, è stata chiara. No, no, ma Susanna ha anche ragione. Tu, Alessandro, sai che io non ne faccio una presa di posizione a priori né una guerra tra sessi. Susanna ha ragione. Questo però non significa che nei casi in cui l'uomo abusa della propria forza fisica, perché nel caso di ieri parliamo anche di questo, qualora fosse verificato e confermato, e abusa del proprio potere, io possa rifarmi soltanto alla dignità, al pudore, alla forza di una donna come strumento difensivo. Perché secondo me non è sufficiente. Allora, dopo la pubblicità, torniamo ovviamente su questo tema, 800 24 00 24, se volete intervenire, ma vi vogliamo anche raccontare una storia molto singolare, molto particolare. C'è un professore iraniano che ha lavorato in Italia, un docente all'università, e che una volta tornato in Iran è stato accusato di cose pesantissime, spionaggio, ed è stato condannato a morte. E noi, c'è stato un appello di Amnesty International, c'è la comunità internazionale, per la verità in maniera un po' silenziosa, che cerca di mobilitarsi. Anche noi vogliamo raccontare questa storia tra poco ai Funamboli. I Funamboli. Bravi, bravi, bravi. Siete avanti anni luce per contenuti, per divertimento nel raccontarli, per educazione, per professionalità. Bravi. Scusate, ma c'è qualcheduna che ha detto no alle molestie dei registri? O tutte hanno detto di sì? Perché qua si tratta di manipolazione di cervello, eh? Io faccio un appello, no. Gradirei più critiche, cari ascoltatori. 349-238-6666. Basta, complimenti, che noia, no, i complimenti. Le critiche fatele, che a lui, che i complimenti. Se le merita, sì, quindi sì, fategli tante critiche, fatele. Tutte ad personam Milan. Proprio, eh? Sì, a me va bene. Allora, Veronica. Sì, comunque è pieno di donne che hanno detto di no, volevo rispondere sì, all'ascoltatore. Certo, pieno zeppo. Io allora, ne conosco tante. Dobbiamo raccontare questa storia, che è la storia di un professore iraniano, Ahmad Reza Jalali, mi perdoneranno per la pronuncia magari non precisa, che per anni e 4 anni ha lavorato all'Università del Piemonte Orientale, quindi ha lavorato in Italia. Andando poi in Iran si è trovato con un'accusa pesantissima, spionaggio e condanna a morte. Noi salutiamo il professor Francesco Della Corte, buongiorno. Buongiorno. Lei ha lavorato insieme al professor Jalali. Ma perché è stato condannato con un'accusa così pesante, per quanto ne sapete voi che vi state mobilitando in qualche modo da ex colleghi per aiutarlo? Ma le motivazioni sembrano essere quelle di spionaggio e attività antistatale, e quindi, siccome loro identificano ovviamente la loro repubblica come una repubblica confessionale islamica, interpretano il reato di spionaggio come un crimine contro Dio, per cui è automatico nella loro visione la condanna a morte. Ma secondo lei l'accusa di spionaggio attorno a cosa verte? Cioè, come il professore prima di partire aveva dei timori di questo tipo, temeva che l'Iran potesse avere degli atteggiamenti persecutori nei suoi confronti? Ma nella maniera più assoluta. Noi siamo andati con lui in Iran almeno 2 volte, abbiamo firmato anche delle convenzioni con l'Università di Teheran e con l'Università di Shiraz. Siamo andati con lui, non abbiamo mai avuto la minima impressione che ci fosse niente specificatamente contro di lui. Cioè, Ahmad Reza era una persona veramente eccezionale dal punto di vista umano, personale, professionale, una persona che ha lavorato con noi e ci ha aiutato molto anche nella ricerca che stavamo facendo. Cioè, il nostro centro di ricerca è un centro aperto a tutto il mondo, senza nessuna distinzione di sesso, età, religione. No, ma è chiaro. Tra l'altro adesso si trova con questa condanna. Devo dire che sia Amnesty International si è mobilitata un po', anche le autorità, in maniera un po' blanda. Io ne faccio una questione, adesso noi non sappiamo come siano le accuse, però la questione della pena di morte sicuramente è qualcosa per la quale tutti dovremmo mobilitarci. Noi, professore, siamo riusciti a raggiungere, ringraziamo ovviamente la famiglia, la moglie del professor Jalali, siamo riusciti a raggiungere una delle figlie, si chiama Amitis, ha 15 anni, la famiglia in questo momento sta a Stoccolma. Abbiamo registrato questa intervista a partire dalla prima domanda, che è, cioè, qual è l'ultima volta che hai visto tuo papà? Era l'anno scorso, aprile, prima che lui sia andato in Iran e si era a casa e lui è andato ad aprile l'anno scorso. Voi facevate una vita assolutamente normale, nel senso che questa cosa tu non ti saresti mai aspettata che potesse succedere? No, no, per niente, cioè anche ora ancora non ci credo. Ma quando te l'han detta, che cosa hai pensato? Come hai reagito? Pensavo comunque che, cioè non pensavo che sarebbe stato lì per così tanto tempo, cioè pensavo fosse stato uno sbaglio e che sarebbe comunque tornato presto. Perché ricordiamo, tuo papà è andato a Teheran, in Iran, per un convegno. E qual è la prima notizia che avete avuto del fatto che fosse stato arrestato e poi addirittura condannato a morte? Sì, era ad aprile, era da una settimana che non avevamo sentito da lui e poi avevamo scoperto dalla famiglia in Iran che l'avevano arrestato, però pensavamo che sarebbe stato lì per un po' di tempo, però che comunque sarebbe ritornato presto e poi... Era, credo, a dicembre che gli avevano detto la prima volta che pensavano di condannarlo a morte. E da aprile a dicembre voi non avete avuto notizie? Avevamo notizie, però cioè non tante. Poteva chiamarci forse una volta ogni due settimane. I primi mesi non poteva chiamarci proprio. Ma non siete andate in Iran? Voi siete partiti? Tua mamma? No, no, noi non siamo andati perché comunque... Prima durante l'estate pensavamo che sarebbe tornato presto, però dopo anche io avevo scuola e non sapevamo comunque se era sicuro per noi andare in Iran. Vi ricordate in famiglia proprio il momento in cui è arrivata la notizia, quella più terribile, perché la condanna a morte ovviamente è un fatto più terribile che è giunto? Sì, io mi ricordo che mia mamma era fuori casa, venuta a casa piangendo e gli ho chiesto cosa è successo e ha detto che... stato condannato a morte. Ci puoi spiegare come funziona in Iran? Cioè la condanna c'è stata e adesso che cosa succede? C'è addirittura una data oppure no? No, la data no, perché stiamo aspettando un, non so come si chiama in italiano, un appello, sì? Sì, appello. Per un appello abbiamo fatto la richiesta, però no, ancora una data non hanno. Voi potete parlare, tu puoi parlare con tuo padre dal carcere oppure no? Sì, può chiamarci, però ora l'hanno trasferito in un'altra parte del prigione, quindi le chiamate non, cioè, sono molto controllate, lui deve stare attentissimo a quello che dice. Ma tu che rapporti avevi con l'Iran? Voi siete andati spesso? Andavamo, perché avevamo comunque la famiglia lì, andavamo una volta all'anno e mio papà andava di più perché lui faceva anche... collaborazioni con l'Iran, quindi lui andava forse due volte all'anno all'università, però andavamo almeno una volta all'anno tutti insieme. Tu, Amitis, vuoi fare un appello qui da Radio 24, magari anche alle massime autorità italiane, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, puoi farlo se vuoi. Volevo chiedere alle autorità e al governo di aiutarci il più possibile. E per farlo ritornare a casa e per sospendere la condanna, perché comunque non è giusto che succeda una cosa così a una persona che non ha fatto niente. Allora, questo è quello che ci ha detto Amitis, 15 anni, professor della Corte. Vuole anche lei, a nome anche di colleghi di Ahmad Reza Jalali, fare una sorta di appello, perché non se ne è parlato tantissimo, eh? Ma l'appello che mi permetto di fare è prevalentemente per la persona, perché per la persona in primo luogo, perché è un ragazzo assolutamente capace di vivere in una comunità scientifica, in una comunità anche locale, in una maniera perfetta, è sempre stato veramente una persona adorabile. E il mio appello ovviamente è rivolto a quelle persone che potenzialmente possono fare qualcosa direttamente con le autorità iraniane. Cioè, purtroppo in Iran il sistema giudiziario in questo caso è completamente staccato dall'autorità politica, per cui l'autorità politica di per sé può fare, ma non può automaticamente impedire che i procedimenti vadano avanti. Cioè, certo. Sono purtroppo un'amministrazione diversa dalla nostra. E noi abbiamo fatto tutto quello che è stato possibile, tanto è vero che in questo momento abbiamo due condotte o due linee di sostegno per Ahmad, una è quella scientifica e l'altra è quella politica. Abbiamo mobilitato tutte le forze possibili e il caso Jalali probabilmente non è così forte nella comunità quanto è in altre nazioni, come per esempio in Svezia c'è stato un movimento veramente più a sostegno, anche perché la famiglia sta lì in Svezia. Noi, professore, quello che possiamo fare è cercare di supportarvi, insomma, starvi vicino, darvi voce, quello che diciamo sempre, Veronica, in questi casi, non molto di più, però è anche abbastanza. Andiamo a sentire il traffico. I funamboli. Veronica, ci sei? Sì, sembra di sì. Ecco, sì. Ci sei, no, ci me sei. Ne ero andata, avevo un appuntamento. Sì, ecco. C'è anche Leonardo Manera. Ci sono anch'io. Buongiorno. E attenzione, perché questo è un momento fondamentale. Allora, signori, ora vi vogliamo premiare. Domenica 19 novembre, quindi questa domenica, alle ore 20:45 al Teatro Manzoni di Milano torna Platone, la caverna dell'informazione, con il sottoscritto, Alessandro Milan, tanti ospiti e ospite straordinario Gioele Dix. E allora volta. Noi cosa facciamo? Da oggi regaliamo due biglietti a due coppie, quindi oggi quattro persone portiamo a teatro, domani pure, dopodomani pure, insomma portiamo 20 persone a teatro questa settimana. Veronica, potresti anche venire? Perché diciamo potrei anche essere io, no? Potresti essere tu. No, Radio 24 è anche in qualche modo partner, certo, di questa, certo, iniziativa, non lo facciamo così di nostra, no, radio, non utilizzando noi le frequenze di Radio 24 per una cosa nostra. Assolutamente. Allora il gioco è molto semplice, diamo una notizia che tra l'altro approfondiremo poi più avanti. Che notizia è, caro? La notizia Leonardo riguarda lo stato, la città del Vaticano, perché il Papa ha proibito le sigarette nella città del Vaticano, perché dice il Vaticano non deve guadagnare su una cosa che fa male, sostanzialmente. Vaticano vieta la vendita delle sigarette. Allora vi chiediamo di mandare al 349-238-6666 via WhatsApp un bel titolo. Se foste un bel direttore di giornale o se foste un caporedattore, che titolo fareste su questa notizia? Vaticano, sigarette vietate, il Papa che non fuma più. Perdonatemi, ragazzi, ma la giuria bianca dopo siete voi? Certo, noi dovete scrivere anche il nome, ma no, anche tu, Veronica, e anche la città da cui scrivete. Scriveteci anche la città, perché adesso Teatro noi Manzoni è a Milano, quindi esatto, insomma è più facile venire se siete nell'arco di 100 chilometri, tipo diciamo. di Bari, ecco. Sì. Allora mandateci al 349-238-6666 i vostri titoli, le vostre idee su questa notizia. Però e noi regaleremo biglietti. Che dopo aver eletto il migliore tra quelli che vi manderanno, ne facciate uno anche voi, uno a testa. Sì. Fumata bianca in Vaticano. No, ecco, è arrivato. Finito. Aveva fatto l'esempio il mio, è fumata bianca in Vaticano. Ne hanno già fatti 36 così, però no. Purtroppo 36. Sei 36. Dai, mandateci i titoli. Intanto, Leonardo, che ci vuoi dire? No, io voglio dire, tra l'altro, che io, sentendovi all'inizio della puntata parlare di molestie, mi è venuto in mente che anch'io ho subito una molestia quando avevo 20 anni, ecco, veramente, sì. Tra l'altro, è una cosa vera. È il primo locale dove lavorai a Milano. Alla fine venne da me adesso non è per vantarmi, ma ero un bel ragazzo allora. Venne da me l'organizzatore e mi disse: tu hai bisogno ancora di fare esperienza, però sei un ragazzo carino, mi disse, mettendomi la mano sulla coscia, accarezzandomi la coscia, e mi disse: se vuoi posso darti una mano a fare un po' di spettacolo. Io credo che questa, alla luce di quello che sta succedendo, possa essere qualificata come molestia. Non lo so. Tu però no, non io stavo, hai tolto, scusate, la mano dalla coscia, e così si spiega la carriera di Leonardo Manera. No, scusate, io stavo vedendo già i titoli, per esempio ce ne arriva uno, non dico, questo non è male: a Francesco non piacciono le bionde. Questo è carino, molto carino. Non è male. Mandate i titoli, però. E allora penso riguardo a questo che, insomma, le donne che si sono molto evolute ed emancipate dovrebbero anche prendere il pacchetto completo, nel senso imparare anche a difendersi, no? Se una cosa non la gradiscono, immediatamente dire che non va bene. Io penso che oggi le donne abbiano modo di fare questa cosa, io credo. Perché i tempi sono anche cambiati molto rispetto a un po' di anni fa. Io me ne rendo conto per strada, quando vedo le persone che hanno 80, 90 anni, quelli che sono nati intorno al 1930, a volte fanno un po' fatica a camminare per strada e ad alcuni fanno anche un po' di tenerezza, a me no. Io li invidio tantissimo, quegli anziani, quei vecchi, perché quando c'è stata la seconda guerra mondiale non sono partiti per la guerra perché erano ancora troppo giovani, e poi dopo la guerra hanno vissuto degli anni meravigliosi. La ricostruzione col piano Marshall, con gli americani che ci davano dei soldi per progredire, per lo sviluppo, coi primi elettrodomestici che entravano nelle case, con l'uomo, il maschio, che era il breadwinner, quello che portava a casa il pane mentre la moglie faceva la casalinga. Ho un'invidia bestiale per i maschi che sono stati giovani in quegli anni, perciò io quei maschi che sono diventati vecchi, quando li vedo per strada li invidio tantissimo. Pensate che a quei tempi il maschio tornava a casa dopo il lavoro, trovava la cena calda, la casa pulita. Non è come adesso che se sei sposato o convivi, anche se hai lavorato tutto il giorno, torni a casa e praticamente non trovi mai tua moglie o la tua donna che ti ha preparato qualcosa da mangiare. Certo, perché anche lei ha lavorato, però è così, al massimo se ti va bene, buttato sul tavolo trovi lo stracchino di nonno Nanni, freddo, a volte gelato di congelatore, che sull'etichetta vedi anche nonno Nanni che si mette un plaid sulle spalle, perché la donna moderna e contemporanea non ha più tempo per cucinare. Invece negli anni 50-60 i padri famiglia ogni sera tornavano a casa e trovavano un piatto diverso, fatto in casa: lasagne, arrosti, tortellini, spaghetti alla carbonara, torte fatte in casa da mogli premuriose sorridenti. Tutto questo hanno vissuto i vecchi nati negli anni 30. Poi dopo cena l'uomo si metteva sulla poltrona col giornale e la donna lavava i piatti, felice perché aveva lavastoviglie, una comodità mai vista prima. Sì, non ci crederete, ma la donna allora era felice di lavare i piatti, felice di usare l'aspirapolvere, e ringraziava implicitamente il suo uomo che attraverso lo stipendio di breadwinner le aveva permesso quelle comodità. Per l'uomo era un sogno meraviglioso. Adesso è diverso. Le pulizie le fanno sia l'uomo che la donna, ma la donna solitamente le fa con rabbia, con una follia antibatterica, perché le pulizie le stanno togliendo tempo alla palestra, allo zumba, al pilates oppure al Moscow Mule. Quindi le fa nervosamente, con rabbia, risentimento profondo. In più, a letto la donna non pretendeva di provar piacere. Una volta, dopo aver fatto l'amore, l'uomo spavaldo chiedeva alla donna: ti è piaciuto? Adesso l'uomo, alla fine del rapporto, timoroso della risposta, non chiede più niente e scappa in bagno perché ha paura che lei non sia stata soddisfatta. E mentre tu, uomo, sei in bagno, lei è già su Facebook a chattare con qualche altro uomo che potenzialmente potrebbe essere iperprestazionale. E in più, dopo essersi goduto tutto questo, i vecchi del 1930 hanno anche preso la pensione a un'età decente. Mario Monti e la Fornero erano ancora lontani. A pensare a tutto questo mi viene da piangere, ma i tempi sono cambiati, bisogna rendersene conto. Perciò quando vedo un vecchio per strada non lo aiuto a traversare, però lo abbraccio e gli dico: beato te, vecchio, beato te. Lo stracchino di nonno Nanni io lo vorrei. Nonno Nanni. Ma scusami, è un, veramente è un must lo stracchino di nonno Nanni, eh? Stanno arrivando tantissimi titoli, mette anche sulla pizza. Vi rivelerò che ho fatto la pizza l'altra sera e ce l'ho messo. Ebbene sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Continuate a mandarli al 349-238-6666. Titoli sulla notizia. Ce ne sono due comunque concomitanti. Dice: sfumata nera e sfumata bianca. Ve lo dico, capito, tra i messaggi. Che volete? Ve l'hanno mandati due persone diverse, entrambe hanno avuto questa ispirazione. Comunque, non è il più veloce che vince, non è un concorso. È quello, a nostro insindacabile giudizio, i due titoli più belli verranno premiati, ognuno con due biglietti. Quindi portiamo quattro persone a teatro, domenica, ragazzi, mica. Spettacolo è una roba alla razza. Lo spettacolo è anche prendervi a casa. È anche divertente lo spettacolo, diciamo. No, infatti, esatto, è incredibile. A parte noi due, diciamo. A parte noi due è divertente, è pieno di comici, musicisti. C'è Gigi Fazio, grande cantante che molti conoscono. Cioè, non credete in noi, ma c'è Joelle Dix, ecco. Ma è sempre quello Full Monty in cui vi spogliate? No, assolutamente no. Dai, prendo il treno e vengo a Milano. La prima ora di Funamboli è finita. La seconda inizia dopo il giornale radio. E la prima ora ve la siete tolta. Ciao. I funamboli. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, baby, I would surely follow. Bravissima, bellissima, grandissima, tuttissima la Gentili. Ma dai, mozzare i verdi e mettere le doppie dappertutto proprio non si può sentire. Oh, ci voleva, ci voleva. Parli in romanesco, questa è la pagina, no. Dice, pagina, come Luca Terese, pagina. Ancora con questa storia, ho fatto anni di dizione. Qualora io mi lasci trasportare da una leggera prosodia romana e volontario per marcare anche una... come si dice? Una era la parola vastità di prima. Territoriale. Era la parola di prima, voglio dire a tutti che se volete fare lezione recitazione ho aprito la mia scuola, venite a fare lezione recitazione nella scuola del maestro Santuzzo, sono qua, vi aspetto numerosi e copiosi, imparo l'accento grave, l'accento acuto, tutte le cose che bisogna imparare per la lezione. Professor Santuzzo, se io venissi da lei, lei smetterei di dire pagina? Ma no, smetterei di dire sabato? Mi chiederebbe a parlare come me, accento grave, accento acuto. Comincio a parlare come lei. Addizione perfetta. Lui è Sprecacenere Donato, che è venuto a trovarci dal Colorado direttamente. Il grande, il grande. Allora, Leonardo, devo dire che c'è un messaggio di una donna, evidentemente. Io lavoro e faccio trovare sempre torte, cena calda a mio marito e faccio da sola la spesa tutti i giorni. Ma beato il marito, io non ho mai trovato una donna che ha cucinato qualcosa per me, mai. Solo una volta che ho tolto il dente al giudizio mi hanno preparato un brodo. È stata l'unica volta nella vita, giuro. Ragazzi, ma che mestizia. Temevo che la frase finisse io non ho mai trovato una donna, appunto. No, no, qualcuno l'ho trovata anch'io ogni tanto. Allora, signori, sono le 10:10. Ragazzi, io purtroppo ho già scelto un titolo per voi sul quale non potrete farmi desistere, no, quindi un voto ce l'ho già. Non lo so, perché prima vanno poi contattati, bisogna capire se vengono. Ma dobbiamo rimanere in sospeso o posso dire un messaggio per cui ho una smaccata predilezione? Tu di il titolo, vediamo un po' il titolo adesso. Scusi, ha da scendere? Questa, no, ragazzi, non è male. È non top, è male. Ve lo allora, dico. Spieghiamolo, il Vaticano ha vietato le sigarette, nel senso che dice uno Stato non deve lucrare su una cosa che fa male. Noi vi chiediamo il titolo migliore che vi ispira questa notizia per vincere due biglietti che daremo. Vediamo oggi tra l'altro come andrà in Vaticano. Chissà se arriveranno copiosi venditori abusivi di sigarette lì davanti a Piazza San Pietro. Tra poco ne parleremo di questa notizia. Prima però è il momento del funambolo, anzi oggi la funambola del giorno. Nome: Nicole. Cognome: Giraldi. Età: 20 anni. Iscritta alla facoltà di filosofia in un solo anno, ha sostenuto tutti gli esami previsti con una media del 30. Si laureerà in primavera. E allora, Nicole, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. No, in un anno non ci credo, davvero in un anno? Nicole, sì, dici dov'è la truffa, giuro, subito, giuro. Dov'è la truffa? No, nessuna truffa, giuro. Ho iniziato l'università il 25 settembre 2016. Mm-hmm. Sì. Ho dato l'ultimo esame il 19 settembre 2017. Quanti ne hai comprati di questi? No, perché diciamolo subito. Ovvio. Un anno! Quanti sono gli esami di filosofia? Sono 18. 18. Allora, quanto durano le tue giornate? Cominciamo con le domande importanti. Allora, purtroppo ci sono solo 24 ore, o per fortuna, questo, perché se no riempirei anche quelle aggiuntive. Allora, io dormo dici poco, vai, la giornata tipo, poco, la giornata di Nicole. Mi sveglio e poi studio, inizio a studiare. Ecco. Però diciamo che non faccio solo quello, faccio tante altre cose. E infatti i miei amici mi chiamano la signora dei puzzle perché riesco a incastrare tutti i vari impegni. Eh beh. Ma non frequenti però, non hai frequentato, studiavi a casa, altrimenti No, ho frequentato anche, non tutto ovviamente, perché dovendo dare 6 esami a sessione non potevo frequentare tutti i corsi. Diciamo che ne frequentavo la metà. Ma tra l'altro diciamo una cosa importante, tutti questi esami sono stati passati con la media del 30, cioè tutti 30? No, in realtà ho preso 2,29 e 1,28. Vergogna. Non sappiamo se possiamo perdonarteli. Se me l'aveste detto prima, forse non l'avremmo scelta come funambola. No, no, ma questa è una cosa incredibile. Qual è l'esame che ti ha creato più difficoltà? Ci sarà qualcuno che... Va bene. Allora, l'esame... Vediamo. Forse quello di... semiotica. Mm-hmm. Perché Umberto Eco ti avrebbe dato una mano forse su questo. Forse. Perché erano tipo 9 libri da studiare ed era veramente tantissima roba. Però è un esame che mi è anche piaciuto molto, tantissimo, devo dire. Ma tu adesso, essendo laureata in filosofia, pensi poi di trovare lavoro o pensi che questa tua fatica sarà completamente inutile? No, allora spero sarà utile. Io l'anno prossimo in realtà cambierò completamente indirizzo perché andrò a studiare neuroscienze cognitive a Trento. Ma stupenda, wow. Stupenda questa cosa. Anzi, ma... so già che, se non sbaglio, sei stata contattata, sei già entrata in un progetto di questo tipo, no? Esatto, io adesso ho iniziato da qualche giorno un tirocinio al laboratorio di neurofisiologia di Brescia, all'IRCS San Giovanni, in cui di fatto facciamo esperimenti sulla agentività condivisa. Questo è un progetto che è stato ideato dal professor Corrado Sinigaglia, che insegna filosofia della scienza al Dipartimento di Filosofia a Milano. E io sono molto contenta di questa opportunità, perché comunque il professor Sinigaglia è una persona importante, soprattutto è veramente una persona estremamente intelligente, e il fatto che sia stato lui a contattarmi è un onore, sicuramente. Esatto, avrà visto come dire, il curriculum scolastico. Ma Nicole, che tu sappia, è un record, o stai stabilendo una sorta di record per questa laurea in un anno, di fatto? Ma sinceramente non lo so. Sono andata a parlare con diversi professori del dipartimento per questioni burocratiche, e tutti quanti mi hanno detto: ma lo sa che la iscriviamo negli annali della facoltà? Beh, ci credo. Ma io voglio chiederti una cosa: ma secondo te la tua vita sociale, no, quanto è stata sacrificata? Senso, di solito gli anni dell'università sono anche anni, no, di formazione, certo. sociale. Veronica, dilli i tuoi, gli anni del cazzeggio. Ecco, così volevo dire. Volevo dire subito. Dei centri sociali, delle ubriacature. Come si può non tornare la notte alle 6 rantolando sui gomiti? Perdonatemi. Ecco, questa era la vera domanda, Nicole. Vabbè, allora dipende un po' dal carattere. Io di base non sono una che comunque tornerebbe alle 6 tutte le sere. Ecco. Sacrificato la vita sociale, sì e no, nel senso che mi sono goduta poco la vita dell'università, però allo stesso tempo le cose che io facevo prima, tipo il teatro, io recito in un gruppo di teatro, oppure frequento un gruppo di persone, quello ho continuato a farlo, cioè io non ho mai sacrificato niente. Poi ho una grande passione che è il canto. Ecco, esatto, io lo voglio dire, perché io l'ho sentita cantare, è una cosa straordinaria. Canta nell'ensemble canta nell'ensemble vocale Ambrosiano, che è un coro straordinario di musica gospel soprattutto, ma non solo. È una delle soliste, ha una voce, ragazzi. No, ma non lo, è una cosa impressionante. Ma una quindi... cantatina non ce la facciamo al volo? No. Una cantatina così, shue. No, Veronica ha questo vizio di scambiare, allora, le trasmissioni di Radio 24 per un karaoke. Al prossimo concerto. Sì, vengo, certo. E i tuoi genitori che dicono di questa tua eccezionale performance? Ti hanno fatto un monumento? No, sono molto contenti, ma sono tutti contenti, ovviamente, compresi i miei professori del liceo, a cui io sono molto molto legata, e sono tutti molto soddisfatti. Anche perché li hai salutati un anno fa, cioè molto legata laureata. Perché praticamente l'altro ieri abbiamo fatto la pizzata di fine anno. Esatto. Ma non meno. Scusami, però io vorrei capire qual è il tuo lato da cattiva ragazza. Vorrei insistere, però laureata in 12 secondi con 110 e più 3 lode, canta nel coro con una voce melodiosa. Bene, dov'è l'animo nero, Nicole? Su. Oddio, non lo so, io, vediamo, soffro di dipendenza da caffè, mettiamola così. Va bene, questo va bene. Non te la caverai così, Nicole. Sì, no. Non costringermi ad indagare. Animo nero non lo so, non penso di averne. Oh, sono arrivate 3 proposte da parte di Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè al di là del vetro, con la classica domanda: sei fidanzata? Cioè, d'altronde voglio non sapere. Subito, perché o si guaglia. Adesso non più. Adesso però... non più. Ma... Partono degli applausi in regia, non ho capito perché. Il tuo fidanzato è fuggito perché non si sentiva assolutamente all'altezza certo. Nonostante avesse preso il Pulitzer, No, Nicola, abbiamo anche un po' giocato, ma davvero è una performance, si dovrebbe dire, straordinaria, perché in un anno fare tutti gli esami con la media del 30, vabbè, un paio di 29-28 te li abboniamo e vanno bene così. Però già... c'è un messaggio geniale di un ascoltatore che dice che probabilmente sua mamma l'ha partorita in 4 mesi. In 4 mesi potrebbe essere. Sta già pare che mia mamma abbia avuto un lungo travaglio quando mi ha partorito, quindi vedi? Sta già pianificando il futuro, gli studi già garantiti, ha una voce, ma veramente ve lo assicuro, straordinaria, canta come solista, che dobbiamo dire? Guarda, se non aveste questa differenza d'età, direi che Alessandro è innamorato di te, descrive. Assolutamente. Solo che è troppo vecchio per te. Non costringetemi a fare una scenata di gelosia, a buttare fare tutto per aria qui, per favore. Nicole, scusa Nicole, ogni tanto ti mandiamo un grosso abbraccio davvero. Grazie mille, in bocca al lupo, Nicole Giraldi, grazie. Beh, per essere stata con noi. Grazie a voi. Complimenti e mi raccomando, fai un po' di cose brutte e cattive, Nicole, ok? Adesso stai tranquilla, Veronica, perché l'anima cattiva arriva tra un secondo, perché abbiamo Massimo Fini. Adesso compensiamo tutto, no? Massimo Fini, perché vogliamo approfondire proprio la notizia che è questa: il Vaticano ha deciso di abolire la vendita delle sigarette. Perché? Dice il Papa, uno Stato non deve lucrare su un qualcosa che fa male alla salute. È un tema etico? Il principio è giusto, bisogna vedere gli effetti. No, il problema è che in genere si dice, uno Stato non deve farlo, non possiamo non ridurci etico, allo certo. Stato etico. E poi il Vaticano però effettivamente... Però il Vaticano non è uno Stato laico, non è il nostro. Esatto. Comunque, scusi, ad ascendere? Ad ascendere, ti piace questo titolo, va bene. Il traffico! Dai, è bellissimo! Non è male. Non è male. I funamboli. Allora, intanto c'è Ferdinando da Genova che è lì da un po' e lo ringraziamo per l'attesa. Che ci vuol dire Ferdinando che ci ha chiamato? Niente. Ferdinando? Sì. Ferdinando, eccoci. Volevo intervenire, mi spiace passare dall'argomento gioioso della laureata a una cosa un po' più triste. La mia annotazione di vecchio insegnante sui problemi che il professore ha avuto avendo criticato il Ramadan. Sì. Ora, nel corso dei miei anni di insegnamento io ho visto infinite volte colleghi e colleghe criticare la religione cristiana o cattolica o di altre confessioni, criticare la religione ebraica e nessuno ha mai detto nulla. Io mi limitavo a dire ai ragazzi, guardate, quello è un punto di vista, esistono altri punti di vista. Purtroppo, secondo me, siamo ormai in una sudditanza psicologica per cui ogni volta in cui si sfiora la religione musulmana, che io rispetto, si hanno dei guai. Secondo me bisognerebbe smetterla di avere questa sudditanza psicologica, riconquistare il nostro diritto di esprimere le proprie opinioni, se sono solo opinioni, E basta. No, ma infatti Gianfranco, io sono d'accordo con lei, insomma adesso l'illuminismo non è venuto a caso, per il diritto di poter esprimere quello che vogliamo nelle nostre società, nel nostro occidente. Grazie. Arriva un ascoltatore e ti riconduce a Voltaire. Esatto, Gianfranco ex Ferdinando, insomma nella vita è stato una volta infatti, meno Ferdinando. Stavo anche per dire, oggi è la giornata dei Ferdinandi per ogni dove, poi si scopre come sempre. Meno male che non l'hai fatto, meno male ero che non già l'hai partita, fatto. Stavo già iniziando con citazioni teatrali di Annibale Ruccello, ero oltre, mi chiamo Gianfranco, finito. Massimo Fini, buongiorno Massimo, come stai? Buongiorno, ciao. Ciao Massimo. Ciao. Di fronte a questa domanda come stai, dice sempre me, male, grazie. No, sì, malissimo. Malissimo, grazie. Sì. Giustamente Massimo, come bisogna stare? Su. Allora, Massimo Fini l'abbiamo chiamato per commentare con noi la vicenda del Vaticano. Oh, attenzione, non iniziate a dire, ma non parlate di altre cose del Vaticano, ne parleremo domani, avremo ospite Gianluigi Nuzzi, l'autore dell'ultimo libro, un altro libro sul Vaticano, quindi di quegli scandali presunti, ne parleremo domani. Oggi ci ha colpito la notizia che in Vaticano vietano la vendita delle sigarette perché, caro Massimo, uno Stato, dice il Papa, non può lucrare sulla salute dei cittadini, su ciò che fa male, quindi niente tabacco, niente bacco. Che ci dici, niente... Massimo, che tu invece no, dunque, non te ne fai né in qua né in là della salute dei cittadini. No, intanto ai Ferdinandi aggiungerei Pier Ferdi, sì, alias Casini, che è ancora lì. È ovvio che il Papa nel suo stato fa quello che più ritiene opportuno. Trovo grave un'altra cosa, secondo me, che il Papa intervenga quasi quotidianamente su fatti interni dello Stato italiano. Libera Chiesa in libero Stato, aveva detto Cavour. Ripeto, il Papa, cioè un ente universale che dovrebbe in realtà parlare al mondo e interviene su questioni interne dello Stato italiano, sì. Perché non lo fa con quello belga, che ne so, ma non dovrebbe farlo con nessuno, voglio dire, altra è la ragione indita della Chiesa. Mi pare, ritornando a Ferdinando Francesco, che non ci sia tanto una sudditanza psicologica nei confronti dei musulmani, forse ci sarà, ma c'è una sudditanza psicologica nei confronti di questo Papa e in generale della Chiesa. Ma in questo caso ha fatto una cosa buona secondo te oppure no? Una cosa giusta, dice, faccia quello che vuole, chi se ne frega. Se comunque perdono dei soldi nello Stato del Vaticano, cioè, a parte la cosa simbolica, Massimo, c'è effettivamente una perdita di denaro, che dici tu di questo? E ne perdessero di più. Scusa. Vabbè, ma qui c'è proprio, c'è il lastio un po'. Però, no? Ma guarda, questo è un Papa, a mio avviso, piacione, che prende tutte misure che piacciono, è una specie di Rutelli in toga papale. Questo non l'ho mai sentita, ecco, Papa Francesco Rutelli. Ecco. E a me parlo in partibus infidelium, ma voglio dire, credo che il Papa dovrebbe occuparsi di più dello spirito, cosa che mi pareva esserci in quello precedente, Ratzinger. Questo Papa, ripeto, questo Papa piace piacere. Cioè lo vedi troppo terreno, troppo implicato nelle vicende invece temporali. Certamente, e siccome delle vicende temporali ne abbiamo piene le orecchie, ecco, se ne occupa anche il sommo pontefice, basta. Però forse il Papa ha così forza dentro lo Stato italiano anche perché lo Stato italiano non è riuscito a diventare abbastanza laico, o no? È vero fino a un certo punto, finché è esistita la cara vecchia e ormai rimpianta, perché dobbiamo rimpiangere tutto, Democrazia Cristiana, queste intromissioni nello Stato non erano possibili. I democristiani avevano ben presente che una cosa è lo Stato e un'altra cosa è la Chiesa, pur essendo cattolici presumibilmente. Ecco, questa ingerenza incomincia con Papa Wojtyła Superstar, che entra a piedi uniti appunto in affari interni. Mi ricordo una sua intemerata contro la Lega perché voleva, non so, l'indipendenza o cosa. Ora, non è che una popolazione è più o meno morale se è una o trina, non sono cose di cui si può occupare il papà. Ma ecco, al di là dico, del è Wojtyła che ha aperto la porta, ma rispondendo alla tua domanda, è soprattutto la classe dirigente politica italiana che ormai non è più, non ha più il senso dello Stato, e cioè di ciò che appartiene allo Stato, sì, e di ciò che appartiene alla Chiesa. Ma invece Chiesa. Massimo, al di là del Vaticano in sé, su questa cosa delle sigarette in assoluto, quindi il monopolio di Stato che a volte fa appunto profitti su cose che possono nuocere alla salute pubblica, tu che ne pensi? Ma anche in Italia, questo piano, allora dobbiamo abolire tutto, perché anche l'alcol fa male alla salute. Infatti, su questo ti vogliamo. Volevamo provocarti anche su questo, tu che sei. Sei un uomo che si accende. No, mi pare che in questa società libera. Ci sono limitazioni per i cittadini, intromissioni nella nostra vita privata, cioè se io voglio fumare e rovinarmi la frenuta, intendiamoci bene, occuparsi del fumo passivo è come uno che bruciandogli la casa si occupa del canile, perché con tutto ciò che respiriamo, io vivo a Milano, uscendo di casa il fumo passivo è l'ultima delle cose. Certo. Ecco, quanto a quell'attivo è un diritto, della persona, come bersi un bicchiere di vino, tre bicchieri di vino, sei bicchieri di vino, ecco. Quindi ognuno fa come vuole, lo Stato può continuare ad avere il monopolio su cose come le sigarette, secondo te? Sì, no, questo no, ecco, direi che è una contraddizione, un'ipocrisia grave, sia questa che tu stai dicendo, sia quell'altra, che c'è il gioco d'azzardo. Sì. Il gioco d'azzardo ha preso una dimensione esponenziale grazie al fatto che tu puoi giocare online, no? E ci sono una serie infinita di società che ti incitano a giocare online, e dopo c'è la scritta ipocrita, gioco può indurre a... ma è chiaro che tema... Queste ipocrisie dovrebbero essere tolte, cioè se lo Stato lucra su queste cose... ci lucrasse senza lavarsi la coscienza, certo. di condannarle. Prendere un pacchetto di sigarette in mano, va bene, con tutte queste immagini terrificanti, oltretutto alcune arbitrarie, perché c'è stato uno ripreso come paziente terminale di cancro. Il poveraccio, per fortuna, non era affatto malato di cancro, ma era stato fotografato e giustamente ha fatto cavolo. Questo sì, certo. Allora diciamo il concetto è di base, e chiediamolo agli ascoltatori, 800 24 00 24, è giusto che uno Stato lucri su cose che facciano male alla salute? Il Papa dice il fumo, ma ormai anche l'alcol o anche altre cose. La domanda si è biforcata, e anche le ingerenze della Chiesa nello Stato a questo punto, no? C'è sempre l'intervento di Massimo. Fatto che proibire non vuol dire eliminare, comunque. Questa è sempre quello. Certo. Andiamo però a sentire la borsa, entriamo tra poco con un defurbizzato. Grazie ovviamente a Massimo Fini. I funamboli. Siamo qua, sono le 10:38 minuti, c'è Antonella che ci chiama da Genova, buongiorno Antonella. Buongiorno Alessandro. Eccoci. Che c'è Antonella? Buongiorno. Ho ascoltato le considerazioni di Massimo Fini, non sono d'accordo. Secondo me lo Stato dovrebbe tutelare la salute, per cui io non concepisco che lucri sulle dipendenze delle persone. Voi avete citato il fumo, il gioco... Per cui a mio parere qualsiasi ingerenza è gradita in questo senso, a maggior ragione. Ma lei lo sa quanti soldi, a quanti soldi dovrebbe rinunciare lo Stato italiano se non potesse contare sulle tasse del tabacco, dell'alcol, del gioco? No, che è questo il cuore. Poi il fatto che tu non lo fa più lo Stato, lo fanno i contrabbandieri, insomma è sempre un costo. Il contrabbando è un reato. È un reato, anche, però è sempre una politica un po', diciamo, di riduzione del danno in qualche modo, no? La questione, però, secondo lei invece Antonella, uno Stato non dovrebbe lucrare, o più che altro ci si può anche chiedere cosa dovrebbe fare lo Stato con i soldi che guadagna attraverso la vendita delle sigarette. Io ve lo dico, a mio parere dovrebbe fare una comunicazione di prevenzione primaria per evitare lo sviluppo di queste dipendenze. E voi giornalisti, voi di Radio 24 lo fate. Io lo comunico a questo signore, volevo dire Massimo Fitti, fatelo di più. No, questa è una posizione intelligente. Oggi, per esempio, c'è un commento di Sergio Arari sul Corriere della Sera a dire utilizziamo quelle risorse magari per investire appunto sulle problematiche. Giustamente, legate Antonella parla di prevenzione, mentre nell'articolo si parla di ipotetici danni già subiti, quindi per esempio curare tumori o malattie cardiovascolari che siano derivate dal fumo. Sì. Quindi queste sono le ipotesi, cioè in qualche modo cercare perlomeno di tamponare mediante quel denaro i danni. Sì, anche se poi comunque ormai si sa i danni che fanno il fumo, se uno vuole continuare a fumare lo fa in modo assolutamente consapevole. No, ma certo, perché... ma un conto è la libertà personale, un altro conto è certo. Se uno Stato debba guadagnarci, perché sono fiori di miliardi di euro di tasse che lo Stato incamera grazie alla vendita di tabacco, la vendita dell'alcol, la vendita oppure la legalizzazione del gioco d'azzardo. È altresì vero che abbiamo visto che la proibizione delle sostanze non risolve degli problema. Effetti collaterali notevoli nell'arco della storia, l'alcol su tutti insegna, no? Questo assolutamente sì, ma è il momento dei nostri furbi, furbetti, furbacchioni, furbastri. Defurbizziamoci. Defurbizziamoli tutti. C'è Domenico che ci ha scritto, come tanti, che al 349-238-6666 dicono: io ho fatto il furbo quella volta in cui... Domenico. Ragazzi, scriveteci di tutto e di più sulle furbizie, per favore. Che ci dice Domenico? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ah, è un piacere parlare con voi. Era il luglio del 1995. Quindi vabbè, la prescrizione è già scattata anche qui, quindi niente. Sì, ma eravamo ragazzi all'epoca, avevamo 15 anni. E giustizia minorile. Stavamo tornando dal mare, in un paesino della Calabria, Montefaone, con lo scooter. Ora, siccome la viabilità in Calabria non è esattamente fluida, diciamo, si doveva passare per una viettina che al ritorno dalla spiaggia risultava in controsenso, altrimenti bisognava fare un giro lunghissimo per tornare a casa. Beh, adesso vanno via la colpa alla viabilità calabrese. Avete preso un controsenso, succede, capita. Adesso... No, ma se non ci fosse stata quella viabilità non l'avrebbero mai fatto. Il problema è la viabilità calabrese. Insomma, ecco. Ovviamente sì. No. E che succede? E insomma, dietro un cespuglio sbuca un vigile. Allora, chiaramente... tra l'altro, mi scusi, questi vigili che passano parte della vita dietro ai cespugli, è veramente una vita ingrata. Ma che tocca fare per luogo. Lavorare, no? Sì, sì. Ma più in quel luogo, perché era una stradina adiacente tra le villette vista mare e la spiaggia, quindi non si trattava di un'arteria importante, era veramente una piccola Vabbè, stradina. Chiaramente il vigile vi ferma. Spunta dal cespuglio. Adesso questo ci ferma... E io di punto in bianco, un colpo di genio, inizio a parlare inglese. In inglese. E dico, il vigile chiaramente esce dal cespuglio con l'aria tronchia e dice: adesso li faccio neri. E io stavo guidando, il mio amico era dietro di me e io inizio a dire sorry, in inglese. I can't understand what are you telling me, sorry. Esatto, inizio a dire non capisco cosa vuole. Non capisco cosa vuole, molto... perché magari era calabrese un po'. In maniera vicino verso il mio amico gli chiedo: scusami, mi puoi spiegare cosa sta chiedendo il signore? E allora il vigile, in maniera quasi surreale, crede che io veramente non parli italiano e inizia quasi in maniera teatrale a spiegarmi a gesti, con i verbi all'infinito. Cioè, come sempre, urlando, come se alzando la voce si capisse di più la lingua. No, ma non è che urlasse, era veramente convinto che io non capissi. Certo, e quindi per qualche minuto ero davanti a questo siparietto nel quale lui a gesti mi spiegava che... disco rosso, no passare, contromano, di qua contromano, no fare, come parliamo noi insomma con gli immigrati oggigiorno. E poi siamo riusciti a fargli credere che io non fossi di lì, che il mio amico mi avrebbe spiegato che le regole della viabilità italiana non prevedevano il passaggio contromano, ma va, direi io. Certo, perché tu eri abituato a guidare sulla sinistra essendo inglese, no? Chiaramente. Sai, è un posto di emigrazione, quindi ci sono tanti emigrati che l'estate mandano. Vabbè, ma io sono curioso, Domenico, ma l'amico dietro sullo scooter, in tutta questa spiegazione, stava muto ovviamente, ha letto il gioco. No, è stato un grande, perché mentre non abbiamo avuto fisicamente il tempo di coordinarci, sì. Io ho iniziato a parlare in inglese e lui è stato meravigliato dal gioco. Quindi dovremmo defurbizzarne due oggi. No, in realtà l'amico dietro si stava chiedendo: ma chi è questa persona con cui mi accompagno? Che immediatamente... No, in realtà... In realtà sapevo che quell'estate insomma andava, stavamo cercando di perfezionare l'inglese, visto che appunto gli emigrati che tornavano lì, cercavamo di parlare con loro per fare un po' di training nella Calabria degli anni 90. E sa che sta facendo uno degli spot migliori per imparare la lingua inglese in questo modo, questo episodio che ci ha raccontato. In effetti è così che ho fatto. Stavi facendo practice un po' di English. Esattamente. Va bene, the cat insomma, is on the table. Stato inconsapevole. Allora, diciamo che ne prendiamo due in una volta e vi defurbizziamo e quindi vi beccate il timbrone. Defurbizzato. Se vi rendete conto di aver fatto una furbata e volete scriverci, funamboli@radio24.it oppure appunto al 349-238-6666. Dai, ma andiamo al traffico. Sciocchina, questa per te è ottima, puoi dire di essere svedese, danese, puoi spacciarti per, non so, islandese. La nipote di Anita Ekberg. Sì. I funamboli. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird. Bird is a winner. Well, a bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird. Allora, sono le 10:48 minuti e io sono molto felice perché Veronica è venuta a trovarci un ospite nuovo. È un direttore, anzi il fondatore di una rivista, sì? È il direttore, signor dottore, immagino, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Buongiorno. Oh, buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori, sì, Radio 24, il dottor Mira, il dottor S. Gentile, una persona straordinaria. Ringrazio anche per l'ospitalità che mi date qui gentilmente, Radio 24, una radio molto interessante. Grazie Ferruccio Ronchi Baronchelli. Allora, sono un uomo di sinistra, di quella sinistra illuminata, che ha in qualche modo il compito di guidare le menti del nostro paese. Insomma, rifacciamo a tutti i grandi personaggi della sinistra che hanno popolato l'Italia a partire da Gianni Agnelli in avanti. Come Gianni Agnelli la sinistra? Abbiamo capito, caro dottor Milan, che il popolino volgare, gretto, le masse, i poveri, sono rappresentati ormai dai partiti più reazionari della destra. I più volgari, beceri. E allora noi uomini e donne ricchi, anche di sinistra, lo diciamo senza pudore, ma di una sinistra illuminata. Sinistra illuminata, è rimasto il compito di guidare il paese dal punto di vista intellettuale per non farlo precipitare nel baratro di un medioevo culturale umanistico. L'ultimo concetto, sì, io non lo so, Veronica, se tu l'hai capito bene. Ma dottoressa Mina, per questo motivo, caro, ho deciso di fondare insieme ad alcuni amici del club un rotocalco di sinistra che si chiama Kashmir. Il rotocalco della sinistra illuminata. Non so se sono stato chiaro. Insomma, adesso, abbiamo la sede dell'autocalco su una terrazza di Caparbio. Ci proponiamo di analizzare i problemi del paese col distacco dell'obiettività della nostra terrazza di Caparbio. A monte a valle della situazione contingente. Nel numero di ridicola. Cosa c'è? Dottor Milan, non devi ironizzare. No, io non mi dispiace vedere che è poco chiaro. È poco chiaro, si vuole far visitare. Ma è chiarissimo quello che dice. Allora, sì, nel numero in edicola questa settimana di Kashmir, l'autocalco a sinistra illuminata, non in tutte le edicole, solo nelle più chic, nelle edicole più snob. Ci sono le edicole chic adesso, le edicole snob. In questo numero vogliamo approfondire un problema che riguarda il popolino, cioè il degrado delle periferie, un problema molto serio. Veronica abita in periferia. Io poverina abito in periferia. a cosa è dovuto il degrado nelle periferie? Me lo dica, anch'io abito. A cosa è dovuto il degrado? Non ironizzi, dottor Mila. A cosa è dovuto? È un problema non serio. Non ironizzare, dottor Mila. No, no. È dovuto nelle periferie il degrado alla presenza delle macellerie, con questi pezzi di carne disgustosi, sanguinolenti, puzzolenti, sgravi. Una rivista vegana. Non ci avevo mai pensato. Anche se sono brutte anche da vedere, anche se non si è vegano. Naturalmente ci rendiamo conto che alcune frange poco illuminate del popolino siano ancora aduse a consumare carne. Non vogliamo privarli di questa consuetudine medievale. Perciò proponiamo, per migliorare l'assetto sociale delle periferie, di trasferire le macellerie al primo piano degli edifici, nascosti dalle persiane semichiuse, e mettere al primo piano terra, dove attualmente ci sono le macellerie, di mettere dei loft, dove si leggono dei libri di Claudio Magris, moderati da Concita De Gregorio. Ecco, Concita De Gregorio potrebbe dare, attraverso la sua moderazioni, un nuovo assetto a queste periferie. Perciò, se siete veramente uomini e donne di sinistra, sottoscrivete l'abbonamento a Kashmir per dare veramente una nuova identità di sinistra più intellettuale al nostro paese. È un settimanale. Ogni settimana abbiamo un argomento monografico. Questa settimana le periferie, poi mandateci le vostre idee e noi ci occupiamo del popolino. Cercheremo di migliorare le vostre vite con una sinistra illuminata. Grazie, grazie dottor professor Bernardo Ferruccio. Vogliamo fare una petizione per un logopedista, no? Non lo so. Ma guardi, se lei non capisce, dottoressa Milan, è un problema suo. Ecco, mi lasci dottoressa dire. Milan. No, dottoressa Gentili, mi sono confuso. Comunque, no, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Oh, no, di sinistra. Di sinistra. Nel nome? Di non ironizzi. Veramente mi dispiace vedere che lei ironizza su problemi seri della società italiana, Milan. Non merita il posto che occupa. Va bene? Può anche essere. C'è Vincenzo da Catania, buongiorno Vincenzo. Buongiorno Milan. Dico, io tutti voi ricevete solo complimenti. Ti dispiace se faccio un piccolo appunto prima di dirti prego, ti prego, ti scongiuro. Di come conducete, ti ringrazio. Io sono un ascoltatore assiduo perché cammino in macchina e ascolto sempre. Ti ascoltavo anche quando eri con Giannino la mattina che continuo ad ascoltare. Un rilievo volevo farti. Voi parlate spesso di cose serie, importanti, che poi accennate appena e poi li lasciate lì in aria, come quella del Papa, che ora sulla quale vorrei dirti due parole. Ma dico, solitamente tu non prendi mai posizione su nulla, hai un atteggiamento asettico nei confronti di tutte le problematiche. Bravo! Che sinceramente mi lasciano un po', non mi entusiasma questo modo di partecipare guardandolo dall'alto senza prendere posizione. Bravissimo Vincenzo! Non prende mai posizione! Non mi ricordo come ti chiami. Veronica, io lo faccio. Io mi sporco, lui ti frena, lo so. Sai perché, Vincenzo? Scusami, dico perché in verità Non riesco a prendere posizione neanche con Vincenzo. Perché tu non riesci, non prendi posizione sulle questioni importanti? Perché, Vincenzo, sono pieno di dubbi. Siccome voi avete un vasto pubblico, quindi un messaggio lo devi lanciare. Ma certo, ma allora adesso su che cosa, Vincenzo? Su che cosa? Tu non prendi posizione su nulla. Su nulla. Sulla questione del Papa, per esempio, è un problema effettivamente. No, Vincenzo, prendo una posizione sul clock. Tra 5 secondi siamo in sigla. Quindi, vabbè, la riprenderemo domani questa mia, cosa. Ti hanno detto che non prendi posizione su nulla. Ma è vero, ma perché sono una persona umile. Non merita niente. Perché sei pieno di dubbi. Niente, oggi è una canea, dai, sei un animo sensibile, vuoi riflettere. Licenziato.